di fortuna nella staffa per stendere, nel filifero per stendere. Sì, dovrebbe essere come un PMR 500 milliwatt come potenza, perché proprio L è il minimo possibile. Vabbè, meglio così. Certo, con l'esterna ovviamente, Marco, che ti piacciono, mi ricevi anche a bassissima potenza. Qua stiamo parlando di gommino, di utilizzo di gommino. C'è un antenino dalla Diamond, dice che si chiama un gergo coda di topo, dice che è veramente forte come antenna, rispetto di quelle che ti danno in dotazione, Gianfra. Ehi, vabbè, di chi è della Diamond, così è? Sì, della Diamond o Diamond, la chiamano volgarmente coda di topo perché proprio sembra una coda di topo, ma dice che è un guadagno allucinante rispetto alle antennine che ti danno loro, che se tu poi le controlli, anch'io l'ho controllata con un analizzatore, non è che sia proprio centrata e di banda proprio. Sì, no, anche io le controllo, quelle che ho sono tutte abbastanza centrate, perlomeno su quella frequenza vanno abbastanza bene, e niente, vediamo cosa ci dice qua. La mia, ne ho una, il gomino quello corto, più una lunga, penso che sia una cinquantina di centimetri, praticamente coprono tre bande, perché arriva fino ai 500 e qualcosa, che è una banda americana che noi non abbiamo, però l'antenna la copre. E, insomma, fanno diciamo una via di mezzo tra una e l'altra, però niente di specifico, dai. È sempre una cosa che abbraccia tre frequenze, non è il massimo. Beh, per ogni cosa ci vuole l'antenna migliore, che spesso ne ho visto certe che fanno pena, guarda. Questa di cui stai parlando è l'SRH36 ed è 36 cm infatti. Ma porta non lo so, dovevi misurarlo, aspetta un attimo. Sì, per i miei standard è troppo lunga, già ce le ho tra l'altro molte con le antenne, ma sono troppo lunghe. Marco, e non puoi segare il punteggio dalla tua parte. Guarda, per me lo farei pure, perché questi è da Natale che non si vedono, a parte, vabbè, a gennaio avevano fatto una piccola intonacatura sul terrazzino interna, però per il resto sono scomparsi. Non so se abbiamo altre. Ma dico, anche se apri 10 cantieri, fai un po' in uno, un po' nell'altro, una settimana in uno, una settimana all'altro, ma questi sono mesi che non si vedono, non so come andrà a finire. Secondo me questo 110% risulterà una vera inchiappettata, boh, speriamo bene, vabbè. È probabile. Molta gente la lasceranno, diciamo, a sedere a terra. Poi i muratori lo sai come sono fatti, no? Loro non sono umani, appartengono a un altro pianeta, o perlomeno nascono muratori già. Appaiono e poi puff, d'improvviso scompaiono. Quelli c'hanno il teletrasporto, guarda. Peraltro avevano tagliato il cavo del baracchino, lo sai, 213, tagliato. Perché io gli avevo detto, al momento non lo sto usando, lo ammatassate, ma non da tagliato intero, lo ammatassate e lo legate un attimo al punteggio, ho tagliato, ho dovuto mettere il barilotto e il WPL, senza stagnarlo, finché non se ne vanno fuori dalle balle non voglio stagnare nulla. Naturalmente volevo almeno il cavo pagato, poi che lo cambio o non lo cambio è un problema mio, però il danno. Infatti in questi casi non so come si procede, un amico mi ha detto che dovresti tramite l'avvocato avere per conoscenza la lettera all'impresa, io glieli volevo scalare dal saldo e mi ha detto non fare quello che poi risulti insolvente per i lavori. E loro sono insolventi per i lavori invece, cioè sono loro insolventi. Vabbè, lasciamo perdere. Ma tanto avrebbero dato la colpa a te. In ogni caso, perché ti dico, ma scusi, ma lei riconosce i muratori, no? Non c'ha un'esperienza, perché figurati, noi ci siamo andati in due, no? per una questione di lavoro, è un posto tra l'altro abbastanza importante, le abbiamo detto mi raccomando qua che state ristrutturando, non toccate quello lì, oh, assolutamente, oh, no, no, non vi preoccupate, mi raccomando, dopo 10 volte, anche prima di andare, mi raccomando, non toccare niente, questo è proprio come se fosse fuoco, non v'è problema, proprio me l'hanno detto. Beh, andiamo in centrale, controlliamo, boom, tutto disintegrato, ci siamo messi male in testa, cosa diavolo è successo? Subito in macchina, andiamo, apriamo, vediamo, siamo rimasti a bocca aperta, roba di 50-60 cavi, tutti tagliati, a forbice, proprio a tronchesina che su era, ci siamo messi le mani in testa. Ma la tenaglia da carpentiere l'hanno tagliati quelli. Era più sicura. Quella tenaglia che c'ha il becco fine. Un casino che non te ne dico. E lì ho fatto un rapporto, arrangiati lì, boh, basta, noi glielo abbiamo detto. Adesso toglietelo dallo stipendio, stiamo parlando di migliaia di euro di danni. E te credo. Oh, Gianfra. Marco, quindi la colpa è tua comunque. Sì, perché praticamente lui dice, vabbè, dice, lei non ha colpa, io non ho colpa, ma allora ho detto, il cavo si è tagliato da solo, non lo so. Cioè, stavano cercando, un po' arrampicandosi sugli specchi per uscirne. E poi uno dei capo ci ha detto, ma magari un cavo ce l'abbiamo noi in cantiere, che cavo mi voleva portare? Un pezzo di filo. Ho detto, quello è un cavo classiale, non ha capito com'è dentro. Vabbè, fantascienza. Cambia un po' l'impedenza, ma è uguale. Sì, come ha detto Franco, cambia un po' l'impedenza, ma un pezzo di filo elettrico è un pezzo di filo elettrico. Oh, yeah. E poi magari, Marco, se sei fortunato ti dà quello trifase a quattro conduttori e per di più anche con la 380. Ti puoi mettere anche il rotore tu, capito? Tutto si può mettere. Sì, però quello che volevo far capire io è, a me io non lo cambio nemmeno, però questo anche di tirarsi fuori, posso dirti, di cagarsi per 125 euro miseri di danno, se allora fanno danni importanti questi, cioè non sanno dove scappare, dove uscirci, non sto chiedendo la luna, no? E poi vabbè, pazienza, vedo che funziona tutto uguale, cioè, poi me lo stagnerò bene il barilotto quando c'è una giornata bella calda. Disossidare tutto, insomma, che non ci sia umidità, poi lo stagno con il vulcanizzante, però insomma la seccatura, dice, ma tanto le antenne vanno tutte su, riferito alle antenne TV, che io ne ho una qui di antenna TV anche nel terrazzino, ma quella è già su di antenna, cosa tagliate? Vabbè, poi come Gianfranco ha spiegato quello che è successo a loro, ma dove è successo questa rete? In centrale, che centrale? E dove si fanno tutti i controlli degli apparati, capito? Guarda, sono non scienza, sono fantascienza. Poi richiamino, vengono per un giorno e poi devi richiamare, ma il telefono non risponde, sono spariti, te l'ho detto, sono alieni. Sì, ma infatti, cioè, sapere che ci imbarcavamo in questa storia qua, poi tutte quelle cose sentite anche da amministratori di condominio, tutte le, praticamente come se stessi ipotecando l'appartamento, cioè qualsiasi cosa, che hanno fatto un elenco infinito di cose che possono andare male e quindi viene colpito alla fine, credo, proprio il condominio o i singoli condomini. Non lo so, roba da terribile, altro che tutto gratis, perché lì con la parola tutto gratis ti ubriacano, no, capito? E uno è convinto sia davvero tutto gratis. Aspetta, vedremo. Sì, ma infatti, ma poi c'è anche un'ingiustizia di fondo, perché questi hanno sperperato soldi che comunque paghiamo noi e non esiste, cioè questi bonus hanno da finire, perché sono pagati da tutti i cittadini e il cittadino non ha nessun vantaggio, cioè quelli che hanno finito tutto stai tranquilli che sono quelli delle ville, quelli delle case stralusso, cioè l'hanno generalizzata a tutti, ma quando mai non devi aiutare le persone bisognose? Quelle sì, ma tutte le altre, cavolo, gente che c'ha piscina e quant'altro, e se ti fidi anche il campo da golf, stiamo diventando matti veramente. Anzi, sono proprio quelli che ti sanno muovere, i poveracci a volte hanno anche paura a fare certe cose. Infatti, perché quelli c'hanno il commercialista appresso, no? Che le fa, le sostiene anche la borsa. E allora è così. La gente, guarda, a me meraviglia una cosa di tutta questa tiritera, che la gente ancora non si è accorta di che le hanno tolto la sanità. Cioè, in Francia stanno aumentando le pensioni solo di 2 anni, loro vanno praticamente a 60, adesso non so su quanto, 63 o 65, e stanno lamentando, stanno facendo tutto fare a fuoco. A noi ci hanno tolto la sanità, perché la sanità ce l'hanno tolta, perché ti sfido a fare alcune visite, ma guarda, dovunque ti formi, sai che oramai devi andare a pagamento, sei costretto, perché se c'è urgenza di fare, che ne so, un eco, ti mandano all'altro anno, sento tanti complimenti. E poi tante altre cosette che l'uomo medio non conosce, però c'è da mettersi le mani in testa di quello che sta succedendo. E così siamo quelli che sistemati. Stiamo diventando un po' conigli in Italia, mi sa. Il giorno che si gira il popolo ridiamo qua. Per agevolare il flusso. Manca a pagamento, a me gli esami del sangue mi ricorrevano fare. Ieri, domani mattina. Non solo d'altro. Allora, sai come fare alzare e insorgere il popolo italiano? Togliere le partite di calcio, allora forse si sveglierà un po' il popolo italiano. Mi frega solo di quello, è al limite dell'aperitivo al bar. E vedrai che adesso come li tolgono il reddito di cittadinanza già si rivoltano, perché come li tocca il portafoglio, tranquillo che si devono rivoltare per forza. Mica c'è gente che non c'ha pane manco per mangiare. Però che è? Andava fatto per quello il reddito, per aiutare chi veramente non poteva mangiare, non per far comprare i gamberoni a chi magari già sbarcava il lunario, capito? A chi non ha da mangiare, cioè o abbassano il tetto di chi ha diritto insomma ad averlo. No, questi sono fissati che c'è lavoro per tutti, ma lavoro per tutti non ce n'è purtroppo. E loro dice gli occupabili, caoccupabili. Il lavoro per tutti non c'è. Ma poi no, vai già. No, volevo dire, il lavoro per tutti ci sarebbe, solo che se non è un lavoro in cui applicano seriamente le leggi, i contratti, è ovvio che la gente non ci va, non è che va a fare il cameriere per 4 soldi, per essere schiavizzato, ma dove siamo? E quindi molti si lamentano, non trovo questo, poi va a vedere, ma scusa, ma quanto le dai? E se va contento, ma cosa sarebbe a dire, ma stai scherzando? È per quello che succederà. È un casino. Poi il reddito è un'altra questione, che come al solito a cani e porci, anche a chi non avrà bisogno, il poveraccio sempre lì, perché c'ha paura di tutto, c'ha paura di chiedere, c'ha paura di finire male, e invece il furbo è sempre lì pronto a dare a fare tutto quello che c'ha da fare. Sì, quello già è vero. Io un macello, tu pensa, gli esami me li hanno fatti al Palazzo Rosa, a me, perché manca pagamento me li volevano fare, siccome erano esami particolari, addirittura uno non me l'hanno neanche fatto perché non avevano i reagenti. Tu pensa a che punto siamo con la sanità. Ma adesso dimmi una cosa, c'è gente, adesso un medico dovrebbe essere ben pagato, si presume, eccetera, però non riesce più a lavorare, capito? Non riesce più a lavorare. Ci abbiamo un numero enorme di gente che si è licenziata, ripeto licenziato, cioè ha detto da oggi basta, ha chiuso la porta, ha detto ha presentato la lettera, me ne sto andando. Ma lo sai quanti ce n'è? Io ogni tanto dico nome, ma c'è ancora, no, sono aperto l'ambulatorio privato. E l'altro, lo stesso, anche lui se n'è andato. Cioè, guarda, cose assurde, al punto che stanno mettendo gli specializzandi per fare il lavoro che dovrebbero fare i veri medici, perché lo specializzando è una delle prime armi in parole povere, quindi figuriamoci cosa sta succedendo. Poi, oramai non rispondo più al telefono, guarda, potremmo rimanere fino a domani a parlare di queste cose, ma poi c'è gente che ascolta, le viene la tremarella, meglio lasciar perdere. E poi si lamentano delle fughe di cervelli, e qua il cervello serve a riempire la scatola cranica, boh, mi sa, non... Vabbè. E poi non sono pagati neanche come si deve, io penso, questi medici. C'è questo ragazzo che c'è qua, che è specializzato addirittura, e va in bicicletta all'ospedale a lavorare. Capito? Una gliel'hanno rubata e una gliel'hanno regalata, deve essere che hanno avuto pietà, perché gliel'hanno rubata da qui, gli hanno troncato proprio il coso d'acciaio che c'aveva per legarla. Infatti ho messo la telecamera proprio puntata lì, così vedo tutto il vicolo per vedere se si avvicina qualcuno a rompere le scatole, e bisogna che li pizzichiamo questa gente. Hanno cercato di aprire il motorino del mio vicino, di quello dell'impettaio proprio Marco, però non sono riusciti a aprire il lucchetto, gliel'hanno solo forzato e e gli hanno aperto il bauletto, però guarda, un macello, qua è anche pieno di ladri. E che non puoi fare nulla, perché sì, puoi chiamare forse l'ordine, magari arrivano quando tutto è finito, è ovvio. Picchiare non li puoi perché subito ti fanno causa per percosse, capito? Non lo so, o ci vuole davvero, l'ho sempre detto, una svolta autoritaria, ma di brutto, in Italia, tipo fascismo, a troncare le gambe a tutti, oppure continuiamo ad andare sempre peggio. Infatti, i poliziotti e i carabinieri temono perché non possono lavorare, a uno non lo puoi toccare perché se no lo stai torturando, capito? Siamo a quei livelli, chi ti mini burue di Arisarayeni. Il mio collega era stesso, gli hanno rubato la bicicletta, ma un attimo ha affidato al garage aperto, anche di un certo valore, la bicicletta da qualche migliaio di euro. Beh, l'ha trovata forse dalle parti tue, mi è andata lì, quella zona lì. E ce l'aveva un tipo di colore, l'ha bloccato, l'ha placato, e questo tipo l'aveva comprata da uno di Sassari. Ha detto quanto l'hai pagata? Ha detto mi siamo da 70 euro, te gli ha dato 70 euro e ce l'ha ripresa, perché insomma era una bicicletta di valore. E non me lo posso immaginare, ma questo poveraccio, questo che è medico, andava a lavorare in bicicletta, mica gli hanno rubato la bicicletta e ne le hanno regalato un'altra, però adesso se la sta mettendo dentro, fuori non la lasciano più. La sta tracollata la porta. E dentro se la sta portando, non le lascia più fuori, no? Qua non ti puoi fidare. Se ti sto dicendo che hanno forzato il motorino del mio dirimpettaio, il lucchetto, però non sono riusciti a aprirlo quello lì, se no anche quello che è un motorino che ci vuole buttata la mondezza, anche quello gli avrebbero rubato. Si attaccano a tutto? Sì, qua non ti puoi fidare. C'è il mio dirimpettaio, se l'è avvicinato un negro e gli ha detto se ne voleva di bamba, figurati a che livello siamo qua. La bamba. Sarà quello che hanno beccato al corso l'altro ieri. Che ne so io. Oh, uno già l'hanno buttato a terra e l'hanno arrestato al tabacchino qua l'altro giorno, di questi neri. Poi posso immaginare la roba tenuta delle mutande, cioè quando lo vai a spacciare, immagino gli affrori che si deve sorbire il compratore. Poi bisogna vederli quando arrivano, con le manette messe dietro. I carabinieri ormai sono tutti anziani, la gente vecchia non ho capito come fai a inseguirli questi. Li portano dentro, li identificano e poi mi danno una sigaretta, la mettono fuori, tanto poi lo mandano via perché non le possono fare niente, cioè fanno la denuncia, ne ha 3 o 4 già, e poi si vedrà, capito come funziona. Anche loro hanno le palle piene perché non possono più lavorare così, ecco. No, in queste condizioni no. Come fai a svolgere il tuo lavoro e a non cadere in reato e cose? Cazzo, tu se spari a qualcuno ti arrestano a te. No, la pistola è meglio tenerla incollata nella fondina, guai. Già solo se la estrai, l'indomani sei sul giornale. Adesso le hanno dato i taser. Anche lì stanno iniziando a rompere le balle, cioè praticamente prima ti deve minacciare lui e poi lo deve bloccare tu. Quando forse ti hai preso una coltellata, allora puoi usare il taser. Cioè, lasciamo perdere, oramai da nessuna parte ti fanno più lavorare perché è un disastro. Quando parla in America una cosa del genere, prima ti fanno saltare il naso, perché con mettergli il naso te lo fanno saltare. Sono tutelati più loro di noi. Tra ladri ci si rispetta, no? Diceva quello. No, negli Stati Uniti è tutto il contrario, devi stare attento, se dicono di fermarti ti devi fermare e stare assolutamente immobile. Se ti fanno staccare le mani dal volante già ti prendi 20-30 colpi e corri il rischio di morire ovviamente. Vero Marco? Sì, si va da un eccesso all'altro, però lì il tasso di delinquenza è folle, cioè Sassari è un paradiso, cioè Sassari, vabbè, se sei nelle grandi città è già diverso, sì, lì ci vanno la mano pesante, poi se sei nero non ne parliamo, poi se sei un nero negli Stati del Sud è ancora più preoccupante lì. E la cosa buffa è anche se i poliziotti sono lo stesso neri, si fanno beffa lo stesso. No, qua sono, nella maggioranza dei casi sono ladri di galline, cioè tu chiami e dici, ma dove si trova lì? Si consulta, chi c'era in quella? Mica sarà tizio, Caio, vanno, sì, è lui, lo pigliano, lo portano, lo rilasciano. Sì. Vabbè, ti volevo chiedere una cosa, ne stavamo parlando con Natalina l'altro giorno, ma tu hai avuto un Intec 5500, Gianfranco? Sì, quando ero bambino, un 5500, sì, la sigla non è nuova, però una cosa, quello vecchio, no, MFM solo. No, intendevo tipo l'Anitone 5555, è presente, quello che anch'io, io ricordavo questo fatto che tu l'avessi almeno provato una volta, e forse sto sbagliando io, allora ragiona Natalino che sto sbagliando. Ah no, non avrò capito un tubo io, l'Anitone 555 non l'ho mai avuto, c'ho gli 875, sono portatili, e il 575 che vi veicolare. E poi gli altri professionali, ma quella è un'altra storia. Sì, allora ricordavo male io. Molto probabilmente, ce l'avevo io quello lì e ce l'ho anche adesso, la Nittone 5555, e sto piangendo perché mi si è rotto il 3009, che mi fa un innesco, chissà cosa mala sorte, e non riesco, devo fare un controllo a mente fredda. Che attacco ha Natale? Quello a 4, quello normale. Anche più piccoli, con tanta qualità, ma prezzi convenienti. Chissà cosa è, mi fa un innesco tremendo. Sai che alcuni modelli hanno come schiaccia la portante, capito? Qualcuno l'ha toccato? No, è quello nuovo, quello omologato, che non è stato mai aperto, nulla. Avrà cambiato microfono, c'è un'apparenza diversa e sta succedendo casino, tutto lì. No, me lo fa col microfono normale suo. No, allora guarda che non sia cosa di caffè. Tu ti guardi, devi fare la prima cosa, ti guardi il plug, no? E per prima cosa metti in cortocircuito il piedino PTT in modo che lui vada in trasmissione senza modulazione e guarda se la portante è pulita, quindi se non c'è proprio nessun segnale, se c'è già innesco da lì è successo qualcosa. Poi sull'altro, quello microfonico, ci appoggi il dito e vedi un po' cosa succede, se si sente un po' di ronzio, che è cosa normale. Insomma, tutte queste piccole operazioni che ti permettono di capire se comunque l'apparato, il modulatore sta andando e quindi è un problema di microfono. Guarda che stanno uscendo questi cavi spiralizzati che stanno combinando tanti casini, quindi può essere il cavo. Usa un altro microfono del suo tipo con un connettore sempre per quell'apparato e vedi un po' cosa succede. Il microfono non c'ha niente, l'ho provato con questo e funziona benissimo. Non c'ha niente il microfono. Oh Natalì, ma a te te l'ho fatto quando hai collegato il LMB più 4 sul 3009 e hai iniziato a farlo, giusto? Poi hai messo il mic originale e hai continuato a farlo. C'era sempre l'MB più 4 attaccato con lo spezzone, no? E l'ho passato qua, a questo qui. Poi sono andato a controllare il 3009 e mi faceva questo innesco qua. Ed è rimasto però anche mettendo il mic normale. Guarda che si è tirato qualche piedino, è entrato un po' in dentro e appunto devi controllare l'interno della presa microfonica sull'apparato, cioè non la spina, la presa dell'apparato dentro, e vedere se c'è qualche saldatura mezza saltata, qualcosa che tocca, che prima non toccava, non so più cosa dire. Franco, riprendi. Sì, Natale, ma quale garanzia ce l'hai? Sì, non lo so se è in garanzia. Adesso mi tocca aprirlo e fare i controlli dovuti, perché i microfoni non hanno niente. Tant'è vero che l'ho provato con questo e funziona benissimo. Se vuoi te lo faccio anche sentire, il microfono suo originale. Perché se c'hai i sigilli non toccarli. Se è in garanzia preferibile mandarlo prima a controllare, dai. Poi se invece è scaduta fai quello che vuoi. No, non ne ha sigilli, no. Solo che l'omologato praticamente c'ha i canali bloccati, capito? C'ha 40 canali solo, c'ha 4 watt, bloccato perché mi serviva omologato a me. Una volta buona di smanettarlo, dai. No che mi serve omologato. Non c'è bisogno di smanettarlo che c'ho questo. Scherzavo, dai. Cosa ti hai preso adesso? Prati 5505 della Nittone. Quello che non ti ha venduto Marco? No, non ce l'ha lui questo, è simile, là. È uguale a questo. Solo che il suo si chiama Intec e il mio Nittone. Ma dentro è lo stesso apparecchio, giusto? Credo di sì, dai. Sì, in effetti sì. Ma è quello che stai usando adesso? Sì, mi c'è anche il BP diverso dal 3009. Aspetta, te lo faccio sentire che lo puoi regolare come vuoi. Però ci hai messo un mic amplificato. L'MB più 4, quello che c'ho sempre. Sì, c'è il BP diverso. Questo si può escludere nel 3009, no invece? Anche io qua non lo posso togliere, invece nel Galaxy o in macchina lì si può escludere. Se io non ne metto in macchina, sa che mi trovi, no gatta, ci vuole pure quella. E bongo, ce l'ho uno piccolino. Salutiamo i pacchetti. Anche io sto valutando di toglierlo lì, è un peccato se te lo fregano. Avanti Gianfra. Sì, comunque Natalì non si può mai escludere il microfono solo perché funziona da una parte e poi dall'altra magari non funziona, fa fischi. Non ti fidare di quello perché, ripeto, prima di aprire vanno fatti i controlli esterni, bene, per capire se l'apparato o se invece il microfono, che a volte, guarda, io ne ho fabbricati tanti di microfoni per usi vari, sono abbastanza rognosi certi, perché c'è quello che va tranquillamente e poi c'è quell'altro che stranamente rompe le scatole. Quindi vedi un po', controllalo bene, perché certi funzionano anche senza la calza e non succede niente, altri senza la calza iniziano a innescare, a fare i fischi, trombette eccetera di tutti i generi, e quindi vedi un po', può essere tante cose, non è detto che sia per forza l'apparecchio, a meno che non l'hai mandato dentro un super amplificato che lo ha un po' danneggiato il modulatore, ma è una cosa abbastanza difficile. E domani vediamo di controllarlo, dai. Ne ho provato anche un altro e funziona benissimo qua, però là innesca lo stesso. Io ce l'ho il bip bello. Questo è quello che ha Carlo attualmente su quell'altro apparato. E questo è il bip numero 4. Praticamente è un bip mangia cervello. Immagina di notte, no? Quando parli piano piano sottovoce e poi senti questa botta. Sì, lo so. Io non ne metto mai, non mi piace il bip, figurati. Quello là è perché non lo potevo escludere. Aspetta, lo levo di gran carriera, infatti. Io c'ho questo invece. Bellino, PM Roso è. No, è digitale, tutte le radio digitali hanno l'inizio e la fine, si può anche escludere, ma è meglio lasciarlo perché il digitale non riesce a capire, sennò quando uno smette di parlare. Io guarda, di solito in banda laterale, quando entra qualche italiano di propagazione, magari per far capire, come adesso, fai pause tra una frase e l'altra e quello non capisce se hai lasciato il mic oppure se stai ancora parlando. Allora in banda laterale può essere utile, quello sì, poi con la propagazione, sai, rumori, rumorini, fischi, fiaschi. Infatti. Aspetta, sono quasi le 9, io me ne ho dimenticato, io devo cenare, oi. Natali, visto cosa ti capita, una certa età, ti dimentichi anche di mangiare. Sì, infatti, magari me ne dimenticassi io. Lo stesso dico io. Io ho dato già a pranzo, quindi mi sa che la salto la cena. Ma non lo dite troppo forte, perché sennò secondo chi ci sente poi davvero, oltre che ci hanno tolto la sanità, ci tolgono anche il cibo. Stiamo mangiando troppo. E poi dicono che mangiamo troppo e quindi ci dimezzano il tutto. Come il grillo, dice, gli staccava una gamba, dice, il grillo con una gamba dice salta ancora, gli staccano un'altra gamba e saltava ancora. A un certo punto gli tocco tutte e quattro le zampe e dice, non è che diceva che non saltava più, il grillo è diventato sordo adesso. Ma infatti penso che tra i politici d'Europa quelli italiani siano i più fortunati, perché oramai ne hanno combinato tante che i cittadini se ne stanno fregando, perché hanno capito che la pasta è quella e c'è poco da fare. Sì, comunque in Francia mi sembra da 62 a 64 gli anni, e stanno facendo un casino nero. Qua siamo già a 67, tutti zitti. E lì solo perché lo vogliono portare a 64, hanno fatto un macello in Francia. È chiaro che sia ancora a ferro e fuoco la cosa, è appena Aspetta quando qua si accorgono cosa hanno combinato, perché ancora noi stiamo mandando in pensione la gente che rientrava nel misto, no? Quando iniziano, tra credo dal prossimo anno o oltre, quelli che andranno col solo contributivo, non più con gli aiuti del retributivo, la gente si troverà veramente con una pensione sociale se continua questo passo. Quindi aspetta che bella sorpresa che c'è all'orizzonte. Sì, infatti se non ti fai una pensione integrativa saranno dolori. Ma almeno i telegiornali ne parlano di queste cose, o è roba che passa tutta sotto banco? No, parlavamo degli orsi oramai, orsi, lupi e affini. È vero. Quindi deviare la situazione, il problema. È vero, è vero. E quest'orso pare che l'abbiano graziato per ora, solo che, non ho capito, prima hanno importato dalla Slovenia degli orsi, no? Si sono moltiplicati a dismisura, adesso vogliono abbatterli. Allora perché li avete importati? Per farli moltiplicare e abbatterli, non lo so. E poi alla fine uccidere, perché quell'orso lo vogliono uccidere proprio? Perché è una per vendetta, allora è una vendetta, diciamo, dai, per farla pagare. Cioè, perché ne ammazzi uno, ne rimangono altri 10, altri 100, boh. Certo, magari bisogna mettere delle protezioni in modo che non venga a contatto magari con l'uomo. Ci sono varie soluzioni, non è detto che bisogna ammazzarlo per forza. Sì, almeno 70 li devono ammazzare, se dovevano essere 50 e sono 120 è logico che si avviene in un Yarugu. Ma poi il discorso è anche un altro, guarda che se ammazzano l'orso poi di cosa cavolo parlano, quindi è meglio che il brodo continui sempre a colare, perché se poi chi lo fa non c'è più, ti tocca trovarti un lupo a quel punto, non so, un cane randagio. Guarda che siamo ridotti veramente male, io me ne metto a ridere però c'è da piangere. Io stavo pensando un'altra cosa, sempre in TV hanno fatto vedere ai TG alle volte orsi che bazzicano tra le villette, no? Per non dire nel giardino di casa di qualcuno, però io penso che lì ci sia qualcuno, dice che bellino l'orso, gli danno roba da mangiare e se lo fai una volta tornerà mille volte l'orso, capito? Come si ricasa lì in quelle zone un po' sperdute, la villetta, ti trovi l'orso seduto in veranda e cosa fai? Non le puoi sparare, se no ti arrestano. Sì, se lo spari da privato magari per difenderti ti arrestano, se ti va addosso e ti difendi ti arrestano, però volevano abbatterlo, ma poi non ne parliamo, quella con i capelli rossi, la, come si chiama, Baralla, no? Ricordate, l'animalista, i guai a toccarglielo. Brambilla. Bravo, Brambilla. Sì, sì, casino. No, ormai si stanno avvicinando, con tipo i cinghiali, vedi, piano piano ormai te li trovi in città, fanno la fame, ormai hanno capito che nei cassonetti, nella mondetta c'è il mangiare gratis, senza fatica, senza niente, quindi e così saranno gli orsi. Lo stesso motivo è sempre quello, la colpa non è loro. Se poi vi dicono, venite al ristorante tutti i giorni, ma costa caro, no che non costa niente, è tutto gratis, scegliete, mangiate quello che volete, quello che trovate mangiate. Guarda, l'altro giorno su YouTube ho visto un filmato, sempre in Nord Italia lì, penso un po' a est, e questi stanno dando da mangiare a questo meraviglioso cervo che era entrato proprio nel giardino, stava camminando sotto il porticato, roba del genere, gli stava quasi entrando in casa. L'animale è bellissimo, maestoso, però se gli dà da mangiare, gli aveva detto anche la moglie, non te lo stacchi più, o viceversa il marito alla moglie dice, se gli dà da mangiare questo non te lo stacchi più, verrà sempre, tutti i giorni. E comunque io non avrei, vabbè, Natalino è un cacciatore, magari più cose, però io di sparare agli animali proprio non ce la faccio, non ce la farei, non potrei mai fare il cacciatore, forse per disperazione, per mangiare. Adesso vediamo con la terza guerra nucleare in arrivo cosa c'è. Ma l'uomo oramai è entrato nella categoria dei predatori già da quando è comparso sul pianeta. quando la natura, ci sono animali come il cinghiale che non hanno nemici, il nemico lo deve avere nell'uomo, c'è poco da fare, se non si riproduce succedono anche queste cose, ce ne sono troppi, oltre a diffondere malattie e quelle cose lì, perché si incrocerebbe anche con altri animali. Succede un casino, però lo voglio capire, tutto deve essere in equilibrio in natura, quando tu tocchi qualcosa fai danno. Oh vabbè, io vado a cercare qualcosa da mangiare, a proposito, adesso mi scendo a valle e vediamo un po' se trovo qualcosa da mangiare, qualche gatto, non so, qualche cagnetto randagio che non si difende. Qualche orso, penso che sarà buono mangiare anche l'orso, sempre meglio della farina del grillo sarà. Sicuramente sì, almeno è carne. E poi c'è anche la pelliccia, insomma. Con quella ci copriamo. Puoi fare una bella pelliccia di orso. Allora, buon appetito, comunque buona cena. Ciao, ciao a tutti, ciao Marco, ciao Natalì, ciao Franco. Alle prossime, buon appetito, anche voi andate a caccia, mi raccomando. Uscite nei cassonetti, sicuramente qualcosa si trova. Ciao Gianfranco, ciao, grazie per le quattro chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime, là. Anch'io me la chiudo che devo fare una cosa qua. Eia, ciao Gianfranco, buona cena. Natalino, idem con patate, e anche io stacco perché sono fritto, ho la testa in fumo. E mi pare dalle 5 che siamo in radio, dalle 5. Voi non so, io forse un'oretta. E comunque anche io sono molto pulito, sto portando, sono da un funerale, poi come si usa, vai al bar e lì gatta ci può, dai. Sono mezzo anch'io, mezzo con un po' di mal di testa anch'io, dai. Ciao anche Natalino, buon tutto, ciao Marco, ciao ancora Gianfranco, alle prossimine, riprendi Marco. Eccolo, di nuovo buonanotte a tutti. Ciao.